spero con me nel mio deserto. Le tue parole, la tua voce, l'immensa sabbia già al mattino fiorirà. Se il tramonto ci guiderà verso l'aurora, tutti i tuoi passi nella notte senza paura seguiremo. Se al tramonto ci guiderai verso l'aurora, tutti i tuoi passi nella notte senza paura seguiremo. Sole, il mio ruscello, sarò la goccia ed un granello. Nelle tue mani ad ogni istante bacerai. Se al tramonto ci guiderai verso l'aurora, tutti i tuoi passi nella notte senza paura seguiremo. Se al tramonto ci guiderai verso l'aurora, tutti i tuoi passi nella notte senza paura seguiremo.